sempre quando è peggio e sono più stanco. Il volto bianco, ti ritorno da una data su un furgone. Mezz'ora fa stavo suonando, se la amo veramente. Mi chiedi se la felicità è permanente, com'è la sensazione quando sotto c'è la gente. È bella perché prima non c'era niente, perché ci dicevano ignoranti, o almeno lo dicevano i più grandi. Per me è valsa la pena di provarci e riuscire lì dove hanno fallito altri. Non gli va bene se un po' rappi e un po' canti, il fatto è che il rap lo fanno un po' in tanti. I traguardi sono importanti, ci muoviamo al buio come ippocampi e ci crediamo ancora, diciamo a noi stessi questa volta è quella buona. Sotto le lenzuola ci alziamo più o meno all'ora che esci da scuola, perché la notte qua si lavora. I polmoni grigi come le Mercedes, perché fumiamo fino a quando non si vede il resto della stanza. Non sai dove sei o che cosa credere, ti basta avere un po' cenere e certe sere crollo, può essere. Perché mi intristisco più del solito, faccio le canne e poi mi scordo dove le ho messe. Faccio le promesse a chi? Poi lancio l'SOS, metto in vetrina le debolezze. Che mi manca mio padre, so che suonerebbe per me dal cielo se potesse. Che è bene ricordare a chi parla che puoi avere tutti i soldi del mondo, ma certe volte per stare a galla. Che è bene ricordare a chi parla che puoi avere tutti i soldi del mondo, ma certe volte per stare a galla. Ancora bastano una voce, un piano e una chitarra.